in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei giornali italiani. Oggi molti titoli sono dedicati alla legge di stabilità perché ieri la Camera dei Deputati ha dato un sì al testo definitivo di questa manovra, il grande budget dello Stato per il prossimo anno, e domani in Senato ci dovrebbe essere l'ultimo ok. E quindi il Sole 24 Ore titola Casa, tasse e lavoro, ecco tutte le novità. E appunto alle pagine 2 e 3 trovate proprio delle schede pratiche per capire che cosa cambia, quali sono le novità, e molti naturalmente i commenti, tra cui quello di Dino Pesole: resta la partita difficile con l'Unione Europea. Sapete che ci sono sempre dei parametri da rispettare, ma anche degli scontri tra i diversi governi, non soltanto il nostro, e le regole e Bruxelles su quali parametri magari possono essere leggermente sfondati per ragioni dall'immigrazione. Noi abbiamo in questo momento anche il problema delle banche, quindi vedremo. Come, o per esempio il calcolo di come calcolare e contabilizzare gli investimenti, un'altra antica questione. E proprio sul rilancio degli investimenti c'è il commento di Giorgio Santilli sulla prima pagina del Sole 24 Ore: ora il rilancio, inversione di rotta. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore anche la notizia che avete sentito nei GR già fin da ieri sera, di Veneto Banca, che ha detto sì con una larghissima maggioranza alla trasformazione in SPA, quindi alla quotazione. La lettera al risparmiatore, come ogni domenica, di Vittorio Carlini, che si concentra su un titolo quotato per appunto dare dei consigli a chi l'avesse già in portafoglio o a chi volesse metterlo nel proprio portafoglio. Questa volta il titolo è Moleskine, un titolo di abbastanza recente quotazione. Si è quotato nel 2014. Moleskine è la famosa società che è nata con i quaderni neri, quelli che usava anche Bruce Chatwin. Da lì ha già molto diversificato. Ora, secondo appunto l'analisi di Vittorio Carlini, è necessaria un'ulteriore diversificazione di prodotto. Pensate, il primo Moleskine Caffè all'aeroporto di Ginevra. E poi anche ci vuole una maggiore spinta sui negozi diretti, sulla distribuzione diretta. Vi segnalo però dalla prima pagina del Sole 24 Ore l'editoriale di Roberto Napoletano, nostro direttore, nostro di Radio 24 del Sole 24 Ore, che torna sulla questione che abbiamo accennato, la quale abbiamo accennato delle banche, e poi anticipa anche l'iniziativa che poi vi spiegherò nel dettaglio quando parleremo della domenica del Sole 24 Ore, che appunto per un mese saranno online gratis tutti i supplementi degli ultimi 32 anni, è il regalo appunto del Sole 24 Ore, insomma, per Natale. Ma vi leggo la prima parte dell'editoriale di Roberto Napoletano, che si intitola Il dovere della trasparenza, il coraggio del banchiere. Cercasi banchiere coraggioso che trovi la forza di fare questo annuncio. Mi impegno a dare tutte le informazioni su ogni singolo investimento offerto alla clientela in un paio di paginette, e soprattutto mi impegno a indicare in modo chiaro e sintetico il grado di rischiosità di ogni singolo prodotto finanziario. Qualcosa che assomiglia alla posologia e agli effetti collaterali del bugiardino che trovi nella confezione del medicinale. Non è facile dimostrare quanti siano quelli che lo leggono per intero, ma è certo che sono davvero pochi quelli che non vanno a dare un'occhiata alle due o tre cose fondamentali: posologia, effetti collaterali, composizione. In questi giorni sono stati troppi a scherzare con il fuoco e alimentano più o meno consapevolmente l'incendio della psicosi e delle paure ingiustificate che fa un falò di credito e fiducia e mette a rischio il patrimonio più grande di questo paese, il suo risparmio. La prima pagina del Corriere della Sera, in questo caso il titolo principale è dedicato alla legge di stabilità, la manovra dei tanti bonus, perché oltre a cose importanti come appunto abbiamo visto i provvedimenti sulla casa, i provvedimenti sulla famiglia, ci sono poi sempre questi piccoli grandi bonus che vengono dati per tenere calmi, si potrebbe dire così, piccoli o grandi gruppi parlamentari o singoli parlamentari. Anche il Corriere della Sera ha uno speciale sulla finanziaria, in questo caso dalle pagine 2 alla pagina 8. La fotonotizia, però, come quella di altri giornali, è dedicata al naufragio che c'è stato ieri tra la Turchia e le isole greche. Si è capovolto un barcone e sono morte molte persone e anche 10 bambini. Da qui il titolo di Francesco Battistini: si capovolge il barcone, un'altra strage di bambini. Repubblica ha un titolo ancora diverso, anche se poi naturalmente c'è molto spazio sulla legge di stabilità, la finanziaria, perché Repubblica ha un'intervista che poi trovate le pagine 2 e 3 al governatore di Banca Italia, e il titolo scelto è "Qualcuno pagherà", naturalmente per la questione delle banche. Secondo Visco, appunto, è stato fatto il massimo, evitare altre crisi, gli errori saranno puniti, il bail-in, iniziative legali nella UE. La fotonotizia anche in questo caso è dedicata al naufragio di ieri, e poi anche un accenno sotto la fotonotizia, mettendo un po' tutto insieme, la questione del piano per la Libia che è stato messo a punto all'ONU. Ma vi dicevo, all'intervista di Vincenzo Visco, vi leggo una domanda, è un'intervista che dà l'impressione di essere stata molto, così vi do il mio parere un po' giornalistico, è stata molto rivista e corretta, cioè è scritta come nessuno parlerebbe, quindi appunto l'impressione che il testo sia stato poi fatto rivedere al governatore, che ha cercato, come è probabilmente giusto che sia, di essere il più chiaro possibile. Il risultato però è un linguaggio un po' farraginoso, molto burocratico, che non chiarisce come forse vorrebbe molti, molti punti della questione delle banche. Allora, per esempio, questa domanda di Fabio Bogo, che è l'autore dell'intervista: sull'Etruria vi siete mossi con ritardo. Risposta: dopo l'ispezione che ha portato al commissariamento di Banca Etruria agli inizi di quest'anno, è stata avviata, come sempre accade quando l'esito non è favorevole, la normale istruttoria per valutare se siano state commesse irregolarità amministrative passibili di sanzioni. Le nostre procedure sono rigorosamente formalizzate e richiedono tempi necessariamente non brevi, anche per consentire agli esponenti bancari la possibilità di spiegare le loro ragioni. Il loro completamento richiederà ancora mesi, e alla fine le proposte degli uffici della vigilanza saranno vagliate dal direttore della banca in una delle sue sedute collegiali. Il che suona abbastanza, come posso dire, buffo, perché tra mesi si avranno gli risultati delle ispezioni, e intanto sta succedendo tutto quello che sappiamo, cioè i risparmiatori si sentono truffati, chiedono addirittura udienza al capo dello Stato, ma la Banca Italia intanto tra qualche mese ci dirà che cosa avevano trovato i suoi ispettori, dando tempo giustamente ai bancari, ai responsabili della banca, di difendersi. Ma questo è quello che dice Visco, l'intervista la trovate a pagina 2 e 3 di Repubblica. Il Messaggero invece ha un'apertura proprio sulla finanziaria, con il titolo "Più fondi a famiglie e sicurezza", sprint finale alla Camera, abbiamo detto ieri lo che è alla Camera, domani quello al Senato, arriva la carta sconti per i nuclei con più di 3 figli. E poi il Messaggero è il giornale che mette con maggiore enfasi in prima pagina la notizia che ieri il cardinale Bertone ha deciso di risarcire con 150.000 euro l'ospedale Bambin Gesù, dopo che sapete nelle inchieste, soprattutto nel libro di Fittibaldi, un giornalista dell'Espresso, era venuto fuori che con i soldi destinati sulla carta al Bambin Gesù era stato ristrutturato l'attico di Bertone. Poi devo dire, tutti i giornali danno molto spazio all'interno a questa notizia, ma come dico, il Messaggero è quello che dà maggior spazio alla notizia in prima pagina. La Stampa, apertura sulla finanziaria, anche perché la Stampa ha un'intervista al ministro dell'economia Padoan, che parla proprio naturalmente non solo ma soprattutto della legge di stabilità, e quindi rigidità sulle banche per il pregiudizio di Berlino. Questo un po' di nuovo, per l'ennesima volta si tira in ballo la Germania, il ruolo della Germania nella vicenda del salvataggio delle banche. Poi sì, c'è un accenno al fatto, con la notizia che abbiamo visto anche sulla prima pagina del Sole, cioè la trasformazione di Veneto Banca in SPA, con un'interessante retroscena che poi trovate spiegato a pagina 2 della Stampa. Pare, Visco l'abbiamo visto prima dichiarare alla Repubblica cercare di spiegare le sue ragioni e anche dire chi ha sbagliato pagherà, e questo retroscena che ci racconta che Visco era pronto a dimettersi quando è scoppiato lo scandalo delle banche, ma è stato fermato da Mattarella, dal capo dello Stato. La fotonotizia della Stampa è dedicata alla decima puntata del viaggio di Federico Taddia, che i radioascoltatori di Radio 24 conoscono bene, all'interno delle realtà artigianali dell'Italia. Questa settimana è andato in un laboratorio di un intagliatore di legno vicino a Tavuglia, e lo chiama Mastro Geppetto perché è specializzato anche in giocattoli di legno e in particolare nei burattini che ricordano o proprio sono, si ispirano alla figura di Pinocchio. Ci fermiamo un attimo per la pausa, sentiremo anche qualche notizia sul meteo e ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buona domenica. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, dopo quelle dei quotidiani principali, vediamo anche le altre. Libero torna ad aprire sulla questione di Banca Etruria, addirittura qui c'è una novità inquietante, potremmo dire, l'ombra del riciclaggio. In Etruria 25.000 conti sospetti. La relazione degli ispettori di Banca Italia solleva pesanti interrogativi sull'istituto del quale era vicepresidente Babbo Boschi. Migliaia di operazioni poco trasparenti, faro sui premi ai funzionari per piazzare le obbligazioni. Questo è forse uno dei nodi più sicuramente che andrebbero chiariti, andrebbero sciolti al più presto, perché se, come scrive Maurizio Belpietro, ricapitolando ancora una volta tutta la vicenda di Banca Etruria, se appunto 2 anni fa già la Banca d'Italia aveva capito che Banca Etruria aveva dei conti in profondo dissesto, quello stesso anno vennero elargiti 2,1 milioni di euro di premi per i funzionari che avevano piazzato le obbligazioni, che poi abbiamo visto essere diventate di fatto carta straccia. Dalla prima pagina di Libero vi segnalo anche un articolo di Antonio Socci, che per una volta non si dedica ad attaccare Papa Francesco, ma questa volta attacca l'Unione Europea. Il titolo è: l'Unione Europea esiste solo per fare gli interessi della Germania. E non basta il ruggito del coniglio, che sarebbe il modo in cui viene indicato la reazione dell'altro giorno di Matteo Renzi, che, sapete, con quell'espressione un po' colorita, come spesso usa fare lui, ha detto che la Germania non è il paese che infonde sangue negli altri, non è alla Germania che noi dobbiamo la vita, e quindi questo sarebbe il ruggito del coniglio, ma è lo spunto che Antonio Socci prende per attaccare l'Unione Europea stessa. Il giornale, ancora anche in questo caso il titolo è dedicato alla questione delle banche: tutti i misteri del salvabanche. Il caso Popolari, Banche Popolari naturalmente, non è risolto, i risparmiatori rischiano altre fregature. La fotonotizia è il Cardinal Bertone, e quindi anche in questo caso, come nel Messaggero, grande spazio in prima pagina appunto alla decisione del Cardinal Bertone di donare 150.000 euro al Bambin Gesù. Dopo la questione che era venuta fuori, lo ripeto ancora una volta per chi magari l'avesse dimenticata, che appunto i 200 e passa mila euro che inizialmente destinati a una donazione al Bambin Gesù, ma che poi erano stati dirottati, Bertone sostiene da sempre a sua insaputa, sulla ristrutturazione del famigerato attico dove il cardinale vive con alcune suore. Il Manifesto ha invece una fotonotizia che ha come sempre un titolo molto colorato, come spesso fa il Manifesto, colorito potremmo dire, Paso Doble, è naturalmente dedicato alle elezioni che ci sono in Spagna. Oggi la Spagna infatti va al voto, è un voto molto incerto che alcuni hanno chiamato un voto all'italiana, perché in Italia non c'è più un bipartitismo come c'è stato per tanto tempo, ma ci sono questi due nuovi grandi player, cioè Podemos e Ciudadanos, che sono un po', vengono spesso affiancati al Movimento 5 Stelle, cioè sono le due grandi novità degli ultimi anni della politica spagnola. È molto incerto il voto, anche se nei sondaggi è ancora favorito il partito del premier Rajoy. Poi c'è anche un titolo dedicato allo sciopero nei supermercati, con la Camusso che ha addirittura invitato a non fare shopping nei giorni di Natale per appunto dare forza alla protesta dei lavoratori della grande distribuzione. L'Unità attacca la Merkel sostanzialmente, titola tutta pagina: i compiti a casa per la Merkel, crescita, sicurezza, energia, Russia, migranti, Renzi apre la partita degli Stati Uniti d'Europa, o l'Unione Europea cambia o collassa con burocrazia e austerity, e nell'Egeo altri 10 bimbi annegati, tutto insieme nel titolo dell'Unità. E poi però la fotonotizia dedicata al voto in Spagna, che appunto viene chiamato una partita a poker, perché come ho detto c'è il Partito Popolare del Premier in carica Mariano Rajoy, che è favorito, anche se tutti i sondaggi dicono che perderà comunque voti rispetto alle ultime politiche. Poi c'è Pedro Sanchez del PSOE, cioè il partito di sinistra, e poi ci sono Albert Rivera di Ciudadanos e Pablo Iglesias di Podemos, che sono i più giovani, perché mentre Rajoy ha 60 anni, Pedro Sanchez ne ha 43, Rivera ne ha 37 come Pablo Iglesias. Quindi un ricambio, dicevamo le due novità della politica spagnola, ma anche un ricambio proprio generazionale. Anche il Fatto Quotidiano torna sulla questione delle banche. Questa volta, secondo l'inchiesta del Fatto Quotidiano, è stata la Consob a mentire ai risparmiatori, quindi secondo l'autorità di vigilanza sulle borse, nascose la lettera di Banca Italia sui veri conti della banca. L'Avvenire invece decide di titolare sulla strage che abbiamo visto, l'ennesima strage di migranti, strage degli inermi, ancora naufragi nell'Egeo, 22 le vittime, tra loro 12 piccoli migranti e un neonato. E poi vi segnalo come fotonotizia un interessantissimo reportage da Teheran: l'Iran a due volti si prepara già al dopo embargo. Sapete che una delle grandi novità del 2015 è stato l'annuncio della fine dell'ultra trentennale embargo e le sanzioni economiche contro l'Iran. Ora l'Iran, che è un paese pieno di contraddizioni sicuramente, ma molto interessante da osservare, specie in un momento che sarà sicuramente di cambiamento come quello appunto del dopo embargo. Ma veniamo alle pagine interne dei giornali, e dicevamo la legge di stabilità, e come sul Sole 24 Ore trovate non solo tutte l'analisi dei provvedimenti, ma anche quel sistema che abbiamo adottato già dall'inizio di quest'anno, che anzi credo già dal 2014, che si chiama Rating 24, dove gli esperti del nostro giornale valutano i singoli provvedimenti. E allora qui c'è quello sulle banche, il Sud, i beni strumentali, la proprietà intellettuale, la previdenza, la decontribuzione, fisco immobili, bonus lavori, contante, e con questo sistema di Rating 24 che ne valuta l'efficacia. Un intervento di Massimo Mucchetti, senatore, presidente della Commissione Industria del Senato e anche appunto senatore, che a pagina 24 del Sole 24 Ore spiega la sua opinione sull'ILVA, sapete, il grande impianto siderurgico che non si riesce a capire che destino potrà avere. Ci ricorda Massimo Mucchetti che entro il 30 di giugno devono essere espletate le procedure di vendita, e secondo lui, così dice, è l'ora del coraggio. COP21 apre spazi insperati per trasformare la grande malata nella prima low carbon dell'Unione Europea. C'è una centrale appunto low carbon, c'è questa tra le tante possibilità. COP21, sapete, la grande conferenza sul clima che si è chiusa settimana scorsa a Parigi, ci sono tantissime linee guida, sappiamo nessuna è veramente obbligatoria, però tutti gli stati che hanno partecipato e poi firmato il documento finale hanno dato l'impressione di essere comunque impegnati per questi grandi obiettivi sul clima, finalizzati soprattutto a diminuire il riscaldamento globale. C'è appunto anche vengono delineati anche nuovi scenari per questi ex impianti siderurgici a grandissimo impatto ambientale, e Massimo Mucchetti appunto suggerisce di avvantaggiarsi quanto più possibile di queste nuove misure. Vi dicevo la questione del Cardinal Bertone, trovate due pagine sul Corriere della Sera, pagina 20 e 21, ma sul Corriere della Sera vi segnalo una notizia che mi ha profondamente colpita, perché nella mia così piccola vita di giornalista tante volte ho usato questa agenzia, la MISNA, la Missionary International Service News Agency, e adesso la MISNA, questa agenzia di notizie messa in piedi, nata per volontà di Giulio Albanese, che è un missionario e anche giornalista, chiuderà entro il 31 dicembre. Ce lo racconta Paolo Conti. Addio all'agenzia che racconta le guerre dimenticate. Chi segue le guerre dimenticate del mondo e chi vuole sapere cosa sta accadendo nelle regioni delle povertà più remote ha un eccellente strumento di conoscenza. Un'agenzia giornalistica unica al mondo, la MISNA, Missionary International Service News Agency. La sede è a Roma, ma i corrispondenti sono sparsi nei continenti. Trattandosi di missionari, nessuna agenzia del pianeta può competere con la capillarità della MISDA. D'improvviso, gli istituti missionari editori hanno deciso la chiusura per il 31 dicembre, proprio nell'anno del Giubileo della Misericordia, e in controtendenza con il gesto di Papa Francesco, che ha aperto la prima Porta Santa a Bangui, nel cuore dell'Africa. In una lettera inviata a Bergoglio, l'assemblea dei redattori dell'agenzia fondata nel 1998 dal missionario giornalista Giulio Albanese sottolineano che con la chiusura a pagare saranno le giovani chiese, le periferie, la società civile che invoca una giustizia sociale senza cui non può esserci pace. E l'idolo del denaro spegnerebbe la voce dei poveri. Urge davvero, ci dice Paolo Conti, un gesto di misericordia operativa per evitare un errore per la Chiesa e per la libera informazione. E davvero, con tutti i soldi che sono stati dati, anche giustamente, per sostenere realtà editoriali piccole o grandi, questa della MISDA è sicuramente una realtà che andrebbe sostenuta. Sulla Repubblica ci sono anche due pagine che riepilogano un po' la situazione in Libia e anche in Siria, soprattutto alla luce quello che succederà in Libia, alla luce della risoluzione ONU sulla Siria, con anche una mappa della Siria che spiega, con il commento di Alberto Stabile, laici, islamisti e salafiti, ecco le milizie pronte al dopo Assad. E poi una notizia che ho trovato solo sul Corriere della Sera, sulla Repubblica, un articolo di Federico Rampini dal Canada, che ci racconta, visto che stiamo parlando di novità in politica, anche il Canada ha un nuovo politico, il suo giovane premier Trudeau, Justin Trudeau, 43 anni, la Trudeau mania che divide il Canada, troppo glamour, dalla difesa dell'ambiente alla copertina di Vogue, è finito anche su Vogue, per molti il giovane premier è già il nuovo JFK, però naturalmente, come sempre, quando spuntano dei personaggi con sicuramente una forte carica innovativa, un po' come anche Renzi da noi, poi ci sono subito anche critiche feroci. Vi dicevo ancora del Cardinal Bertone, sulla Repubblica anche un'intervista, ma la trovate anche sul Corriere della Sera, anche qui insomma, giudicate voi. Si difende, sì, il Cardinale dice che non è una missione di colpa quella di restituire questi soldi, si difende da tutte le accuse, e Paolo Rodari, a proposito di accuse, gli dice anche, si riferisce anche all'accusa di vivere in un appartamento di lusso, e la risposta è anzitutto a quella: l'appartamento di lusso non esiste, vive in un appartamento la cui grandezza è uguale a quella di tanti altri cardinali, e verrebbe da dire, e allora forse sono tutti troppo grandi, per esempio. Quindi insomma, una difesa un po' su alcune questioni che ancora è un po' titubante, anche se sicuramente appunto questi 150.000 euro verranno dati al Bambin Gesù per permettere appunto all'ospedale di usarli per migliorare le strutture ospedaliere, finanziare la ricerca e tutto quello che serve a una struttura ospedaliera. Ci lasciamo un attimo per le notizie sul traffico. In primo piano. Rieccoci ancora, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo nelle pagine interne dei giornali e visto che abbiamo parlato tanto del Cardinal Bertone, dal Messaggero, vi segnalo un approfondimento sulla questione dell'IMU alle strutture religiose. Il titolo: le strutture religiose continuano ad evadere. Nonostante gli appelli di Papa Francesco, l'incremento di chi paga si è fermato al 10%, ricorderete. Dopo la polemica, quando si decise di far pagare appunto l'IMU anche alle strutture religiose, perché molte di loro, molte di queste non erano chiese o prettamente proprio edifici religiosi dedicati al culto, ma per esempio ristoranti o comunque strutture gestite dalla chiesa, ma non appunto luoghi di culto. E Papa Francesco in quell'occasione aveva detto: è giusto che paghino. Ecco, l'appello è caduto nel vuoto, come spiega il Messaggero. Resta la tentazione di aggirare le normative, il 50% degli istituti non è in regola con le rate. E appunto a luglio c'era stato questo monito di Bergoglio, che aveva detto con la sua solita chiarezza: chi trasforma un convento in un albergo deve pagare le imposte. dalle pagine dell'Avvenire, come sempre, finestre sul mondo che magari su altri giornali non troviamo. Ecco per esempio una finestra sull'Egitto: Sisi stravince l'odissea elettorale, record però di astensionismo, 70%, pensate. Il paese è apparso sollevato nel consegnarsi all'ennesimo Rais, risultato dolce amaro per i candidati cristiani, solo 36 gli eletti, quindi un'altra elezione che abbiamo un po' così dimenticato quasi. Invece l'Egitto sappiamo che poi in realtà può essere una pedina molto importante nello scacchiere nordafricano. Poi vi segnalo dall'Avvenire sempre un approfondimento, un'inchiesta vera e propria sulle bande latine. Se ne parla ogni tanto quando succedono dei fatti di cronaca terribili, come quelli, lo ricorderete, dell'aggressione della mini banda di giovanissimi ragazzi latini a un controllore delle Ferrovie Nord, un'aggressione che venne fatta con un macete. E allora Lucia Capuzia, autrice di questa inchiesta, ci racconta i fantasmi delle Maras, perché così vengono chiamate queste bande nei paesi latinoamericani, le bande sudamericane che sono in realtà nate nei ghetti degli Stati Uniti. Oltre 200 a Milano sarebbero i giovani coinvolti, spesso violenti ma senza avere i contatti con la criminalità. Ma passiamo ai supplementi della domenica, cominciando naturalmente dal nostro, dalla Domenica del Sole 24 Ore, che ha una doppia copertina, perché vi dicevo parte questa iniziativa di mettere online sul sito del Sole 24 Ore 32 anni di supplementi, e quindi la copertina appunto che ci ricorda questo, e poi la copertina tra l'altro appunto Armando Massarenti, in questa controcopertina potremmo chiamarla così, racconta 32 anni di idee e di saperi con un click in questo regalo di Natale, che trovate all'indirizzo www.archiviodomenica.ilsole24ore.com. La copertina vera e propria invece è un articolo di Laura Leonelli, Mio papà l'occhio di Hitler, incontro a Berlino con Hans-Peter Frenz, figlio del cameraman e fotografo personale del Führer, che mostra in esclusiva al Sole 24 Ore gli archivi del padre, il capo del nazismo, il suo entourage e anche il duce come non li avete mai visti. Ma anche naturalmente, come ogni domenica, vi leggo il breviario di Gianfranco Ravasi, che questa domenica si intitola Natale. Non venisse mai Natale, le luci, il chiasso, le automobili, la gente che non si passa da nessuna parte, tutti una fretta, baveri alzati, pacchetti, la nebbia, le facce lustre dei macellai, auguri, auguri, carte colorate. Ecco un quadretto natalizio che si ripete ancora oggi, nella nostra società post-cristiana, secolarizzata, ipertecnologica e così via, come si è soliti dire. Il poeta Raffaello Baldini, in Ad Nota, mi marca non solo la popolarità nel dialetto romagnolo, che ho tradotto, e i colori quasi fiamminghi alla Bruegel, ma anche la sua netta distanza attraverso quell'avvio che ha il sapore di una maledizione. E non possiamo dargli del tutto torto. Fatto pure sconto sull'atteggiamento isolazionista e un po' schizzinoso, è pur vero che abbiamo ridotto il Natale a un rito da celebrare nei centri commerciali. Non per nulla i servizi giornalistici di questi giorni seguono la costante trama dell'intervista su quantità e qualità dei consumi. Ma senza perdere la gioia della festa, forse è possibile a tutti, credenti o no, scrostare il Natale dalle scorie e ritrovare l'anima di amore, di tenerezza e speranza che in esso è custodita. Un augurio, insomma, che possa davvero essere così. E poi un intervento sulla seconda copertina della domenica di Marc Augier, l'antropologo francese, Un non luogo chiamato Terra. Sapete che uno dei suoi libri più famosi si chiama proprio Non luoghi. Tra l'altro abbiamo appena sentito parlare di centri commerciali di Gianfranco Ravasi, ecco, Un non luogo per eccellenza sarebbe, secondo Augier, il centro commerciale. Questo è un'anticipazione del Sole 24 Ore di un nuovo volume di Marc Augier, e quindi il non luogo chiamato Terra, gli spazi di anonimato, le finzioni dell'immagine, le menzogne dei consumi possono essere anche gli spazi dell'incontro, del possibile avvenimento, dell'attesa, della speranza, la risposta dell'antropologo. E poi a proposito di banche e di come le banche agiscono e si muovono, una interessante paper recensito da Marco Nado di Donato Masciandaro, che è sicuramente esperto di banche, economista esperto anche di banche, che racconta come sia illusorio eliminare lo schermo, il segreto bancario. La domanda è alta e trovare i suoi canali di offerta. Quindi questo del segreto bancario sicuramente è una questione di cui si dibatte molto, avete seguito come la Svizzera lo sta gradualmente abolendo, però è sicuramente un tema ancora molto delicato. E poi dalla domenicale vi segnalo anche un bel ricordo di Laura Leonelli, di Mario Dondero, il grande fotografo, definito il fotografo della libertà, scomparso questa settimana. Poi una recensione per chi così volesse divertirsi o magari ha già visto il film o deve decidere se andare a vederlo, Star Wars, che è uscito 3 giorni fa in Italia e che credo ormai di cui tutti hanno sentito parlare, anche se magari non l'hanno ancora visto, Il risveglio della galassia, la recensione di Emilio Cozzi. È tornata la saga più longeva e famosa della storia del cinema e la nuova proprietà Walt Disney punta su un sequel, già si parla di sequel, e addirittura su alcuni spin-off. E poi non posso non segnalarvi l'articolo di Davide Paolini sul panettone, il decalogo del panettone. Tra l'altro sapete che Davide Paolini sono anni che insomma conduce la sua battaglia per convincere tutti a far diventare il panettone in realtà una cosa non stagionale, non solo legata al Natale, perché togliersi questo piacere anche durante l'anno. Comunque, per capire, visto che adesso è il momento del panettone, se il panettone è davvero buono, il decalogo del panettone: è morbido al taglio? La frutta è candita? L'uvetta ha acidità? Ha le alveolature? Tutti i segreti per non sbagliare a Natale. E poi la lettura invece del Corriere della Sera, che come sempre dedica la copertina a un artista, questa settimana è Pay White. E poi vi segnalo all'interno un bell'articolo di Alessandro Piperno dedicato alle abitudini, ambigue abitudini. Siamo tutti un po' come il protagonista dello Straniero di Camus. I comportamenti ripetitivi ci rendono la vita tollerabile. Interromperli è doloroso, spiega Proust, ma può essere liberatorio. Ci confortano tenendo a bada l'ansia per il tempo che passa, ma il loro effetto anestetico toglie vivacità al nostro spirito, fino a renderci ottusi e crudeli. Questo era invece l'ammonimento di un altro grandissimo, Michel de Montaigne. Serena Danna ci racconta invece, ci aveva raccontato un po' questa novità di questa app Slack che rivoluziona la posta elettronica. Ora ha incontrato l'inventore di questa app, Stuart Butterfield, e quindi ci racconta l'IPPI che elimina le email. Cresciuto in una comunità di figli dei fiori, il canadese laureato in filosofia ha fondato già Flickr, il primo sito per condividere le fotografie, ha fallito 2 volte con i videogiochi e ora Serena e il Corriere e la Lettura lo hanno scelto quindi come innovatore del 2016, ha inventato questa Slack, questa app che potrebbe in effetti liberarci un pochino dalla schiavitù della posta elettronica. Un bellissimo disegno su 2 pagine, una specie di infografica potremmo definirla, sulla Sagrada Famiglia, sapete, il capolavoro di Gaudì, che è tuttora in costruzione. È stata consacrata da Papa Benedetto il 7 novembre 2010, quindi appunto è a tutti gli effetti una cattedrale tra le più importanti d'Europa, però è ancora in costruzione, dovrebbe forse concludersi appunto il capolavoro di Gaudì del 2020. E in questa infografica ne vedete tutti i dettagli, tutte le preziosità e tutte le curiosità. Sulla Repubblica di oggi, nella serie di interviste straparlando di Antonio Gnoli, sempre illustrate da un bellissimo ritratto dell'intervistato di Riccardo Mannelli, questa settimana è Giuseppe Bevilacqua, un giornalista, scrittore e traduttore. Il titolo: Le piccole utopie mi hanno salvato da un'esistenza ai confini della notte. Tra l'altro è stato anche docente all'estero, quindi grande studioso di cultura tedesca. In questa intervista si racconta tra drammi privati e incontri indimenticabili con tanti intellettuali europei del Novecento. La domenica però ha anche un bellissimo articolo di Emanuela Audisio, grande esperta di sport, però proprio soprattutto una bella penna quando poi racconta queste grandi storie. E questa settimana ci racconta La donna che mise K.O. a Lee, cioè l'Islam, il Vietnam, il ring, la malattia e le altre, intervista all'ex moglie Khalila Camacho Ali, che si chiama proprio così, l'ex moglie di Muhammad Ali, definito il più grande pugile del mondo, della storia, da Emanuele Audisio. Macro del Messaggero, il supplemento, ha una copertina dedicata al cinema a 2 facce, rinasce sul serial, questa idea che tanti film di successo poi sono diventate anche delle serie TV. ma l'abbiamo visto anche in Italia, per esempio con Gomorra. Infine, Alias del Messaggero, l'ultima segnalazione che riesco a farvi, ha una recensione così vecchio stile, una recensione molto lunga, ha un bellissimo libro che si chiama La musica nel castello del cielo, che è un ritratto di Johann Sebastian Bach di Gardiner, è un libro Einaudi che appunto ci racconta lo sguardo di Bach. C'era con tutti i ricordi personali dell'autore, ma anche naturalmente un viaggio nella musica di questo grandissimo compositore. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi. Grazie a Carmelo Lauricella in regia. Ancora una buona domenica a tutti.